Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Se non è nuova e non invecchia mai, allora è una canzone folk. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi A proposito di Davis, di Joel ed Ethan Coen. È la vera storia della vita del cantante e musicista folk americano Dave Van Ronk, che nel pieno del movimento beat riuscì a realizzare il suo sogno e diventare un artista. Audiogrammi in radio come al cinema. Dave Van Ronk nacque in un ospedale svedese di Brooklyn il 30 giugno 1936. Suo padre e sua madre si separarono quando era appena nato. Il padre non lo conobbe mai, ma non fu una cosa dolorosa, né ebbe mai anche solo un briciolo di curiosità nei suoi confronti. Quel che non conosci non ti manca. Fino all'età di 9 o 10 anni, Dave a volte stava con sua madre, altre volte con questa o quella zia. E una delle migliori si chiamava Emma Mamma Hogan. Mamma Hogan adorava il jazz e la radio in casa era sempre accesa. Duke Ellington, Louis Armstrong, Benny Goodman, Count Basie. Li ascoltava tutti e a volte trasmessi dal vivo. Dave aveva sempre voluto essere un musicista e un uomo di spettacolo. Guardandosi indietro, il dado era tratto ben prima di accorgersi che si trattasse di gioco d'azzardo. A 14 anni mise su un quartetto con alcuni ragazzini del quartiere e ampliò le sue doti di strumentista incorporando la chitarra nel suo bagaglio musicale. Persino ai tempi in cui si dilettava con le armonie vocali e la musica leggera, non smise mai di ascoltare e amare il jazz. Avrebbe voluto suonarlo, ma non c'era nessuno in giro da cui impararlo dal vivo. Alla fine si rese conto che avrebbe dovuto stringere i denti e prendere qualche lezione di chitarra. Ebbe un colpo di fortuna e in qualche modo trovò Jack Norton, che aveva suonato in alcuni gruppi piuttosto noti, e insegnava tutti gli strumenti che si potevano suonare in una band. Viveva in un appartamento nel Queens. Alcuni ragazzi passavano i sabati a casa di Jack, restando seduti nel soggiorno ad ascoltare dischi, a discutere, a scambiarsi giri di chitarra e in generale a far baccano nell'attesa che arrivasse il loro turno. Jack insegnò a Dave alcune diteggiature che gli sarebbero servite per tutto il resto della vita. Oltre ai fondamenti tecnici, però, Jack insegnava qualcosa di molto più importante: come ascoltare. Yes, give me a kiss to build a dream on. My imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Kiss to build a dream on. Grazie ai suoi interessi musicali, Dave si trovò una specie di ragazza, Cindy, che aveva un'amica di nome Rochelle Wiseman. Era sempre ben informata sulle ultime tendenze, era alla moda, era una donna matura, 16 anni, e sapeva tutto riguardo a una roba chiamata musica folk. Ogni domenica pomeriggio prendeva la sua adorata favilla, una chitarra con le corde di nylon, e andava fino a Washington Square Park, nel Greenwich Village, dove il popolo del folk si radunava per levare la propria voce in un unico canto. Yes, give me what you alone can give. I kiss the bill I dream on. Dave aveva sentito e letto parecchie cose sul Greenwich Village. continuava a saltar fuori la frase «pittoresco fascino da vecchio mondo». Blood red moon is rising, sun is falling down. Blood red moon is rising, sun is falling down. Quando decise finalmente di andarci, uscendo dalla fermata della metro della quarta strada est, si guardò intorno sconvolto. Gesù Cristo, borbottò. Ma è uguale identico a Brooklyn. And my woman told me you can kiss yourself goodbye. Per quanto poco promettente, quella prima gita al Greenwich Village fu il punto di partenza della sua sconnessa migrazione verso l'altra sponda dell'East River e verso una vita da musicista di professione. Era il 1951. I'm going where the blood red moon can't shine. I believe I'll go back home to Brooklyn where I'm lucky all the time. Dave non se ne andò mai ufficialmente di casa. Prendeva un treno per Manhattan e finiva per passare la nottata sul pavimento di chissà chi. Poi le nottate divennero due, poi tre, finché a un certo punto passava la maggior parte del tempo a Manhattan, sebbene ogni tanto si facesse il lungo viaggio verso il Queens per cambiarsi le mutande e vedere se riusciva a rimediare qualche soldo. Poi quelle visite si fecero via via meno frequenti e a 17 anni ormai Dave viveva a Manhattan a tempo pieno. Sì? Sono lui, non chiudere, non voglio restare, mi serve un posto per le mie cose, ti prego, sono stanco di trascinarmi tutto dietro. Ti prego. La sua era davvero una vitaccia. Spesso suonava per il minimo sindacale. Altre volte gli toccava pure allungare qualche soldo sotto banco al proprietario. Gli andava di lusso se riusciva a suonare due volte a settimana. Molto più spesso si doveva accontentare di un concerto ogni due settimane. Dove andrai a stare? Non lo so. Sono due notti. Ci sarà qualcuno in questa città non incazzato con me. Sopravvivere in quel modo, persino nei dorati anni 50, non era facile. Si stava rendendo conto alla svelta che era una faticaccia sopravvivere senza un lavoro fisso. Di solito riusciva a trovare un pavimento o un divano su cui dormire, ma il cibo era sempre un problema. Insieme agli altri organizzava delle spedizioni di saccheggio. C'era anche il problema di tenersi puliti. Gli toccava scroccare perfino le docce. Tagliarsi i capelli era possibile soltanto se andavano alla scuola per barbieri in Bowery Street. In alternativa si tagliavano i capelli l'uno con l'altro. Non potevano permettersi di portare vestiti in lavanderia. Diventavano via via più sporchi e sudici. E a volte Dave era talmente sudicio che non lo assumevano più neanche come sguattero. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world. Le occasioni per ascoltare musica gratis, invece, non mancavano, grazie alla sua amica Rochelle e alle domeniche passate a Washington Square. Personaggi come Tom Paley, Dick Rosmini e Fred Gerlach facevano una musica imparentata con il jazz delle origini e la interpretavano con una finezza e un'immediatezza che lo lasciavano di stucco. Aveva già sentito suonare con quello stile, ma soltanto su alcuni vecchi 78 giri rimediati per caso mentre cercava dischi jazz. Dave non diventò mai un vero collezionista. D'altronde dormiva sul pavimento di altri e via discorrendo. Per collezionare dischi serve un posto fisso in cui vivere. Ci fu un periodo nel quale non eri nessuno a meno che non potessi parlare con cognizione di causa di puntine da giradischi. Chuck, azione! Audiogrammi, in radio come al cinema. Vi stiamo raccontando A proposito di Davis, di Joel ed Ethan Coen. Una domenica pomeriggio capitò a Washington Square Park e notò un tizio con una vecchia New York Martin, una piccolissima chitarra dalle sonorità dolcissime. attirò subito la sua attenzione perché stava facendo tutto da solo. Con il pollice pizzicava le note basse mentre suonava la melodia con le altre dita. Dave non aveva mai visto niente del genere e rimase lì impalato ad ascoltarlo. Quando il tizio smise di suonare, gli attaccò subito bottone e gli chiese di mostrargli cosa stava facendo. Well, I remember one September on a Friday night, Stagger Lee and Billy Lyons had a great fight. He's a bad man. Oh, cruel Stagger Lee. Il tizio in questione era Tom Paley, che in seguito sarebbe diventato un membro fondatore dei New Lost City Ramblers. Fu molto gentile e rispose con garbo a tutte le stupide domande di Dave. Suonò più lentamente il pezzo e gli consentì di capire a grandi linee come funzionava il tutto. I vantaggi di quella tecnica gli apparvero subito evidenti, dato che ciò che desiderava davvero era cantare e quello stile sarebbe stato perfetto per accompagnarlo da solo. Corse a casa, prese la chitarra e si mise al lavoro. And down in New Orleans, there's a place called Lion's Club. Cause every step you step, you're stepping Billy Lion's blood. He's a bad man. Oh, cruel Stagger Lee. Pian piano Dave migliorò. Migliorarono tutti, a dire il vero. Quando uno di loro capiva qualcosa, lo condivideva. E il livello di abilità generale saliva. Era un processo di sperimentazione e furto combinati insieme. Tutti copiavano tutti. E come diceva Machiavelli, ogni cosa procede in cerchio e così si mantiene l'impero. Dave cominciò il suo passaggio dal jazz al folk. Una transizione che andava contro la regola generale per la quale dalle cose semplici si evolve verso quelle complesse. Nel suo caso prese una decisione tecnicamente regressiva, ma non c'era alternativa se voleva sopravvivere. Non aveva finito il liceo, quindi non poteva aspirare a diventare un professore di filologia comparata o un fisico nucleare con l'hobby della chitarra. E per quanto amasse il jazz tradizionale, Dave era stanco morto di suonare la musica per studenti ubriachi con qualche ridicolo cappello in testa. E sebbene fino ad allora fosse stato in grado di digerire anche quello, la scena era praticamente morta. E non c'erano pensioni di invalidità per i reduci della guerra combattuta dai puristi del jazz. Era chiaro che i suoi progetti professionali necessitavano un tormentato riesame. E a meno che non volesse chiudere del tutto con la musica, il folk era l'unico treno su cui potesse salire. Probabilmente l'avevate già sentita. Se non è mai stata nuova e non invecchia mai, è una canzone folk. Dunque si scrollò di dosso lo snobismo jazzistico che aveva coltivato con tanta cura e decise di reinventarsi cantante e chitarrista. Come si usa dire, a volte devi lasciar perdere i tuoi principi e fare ciò che è giusto. Verso il 1956 o giù di lì, ormai Dave padroneggiava le basi di quella tecnica nuova di nome fingerpicking ed era diventato una presenza fissa a Washington Square. Era l'età dell'oro per quella scena musicale, dato che stava emergendo un'intera nuova generazione, ma non ancora tanto ingigantita da perdere il controllo. I ritrovi musicali della domenica pomeriggio in realtà erano cominciati già a metà degli anni 40, quando alcuni amici di Dave avevano preso l'abitudine di vedersi al parco per improvvisare in compagnia. La popolarità di quell'appuntamento era cresciuta fino a risvegliare l'interesse della polizia, suscitando battibecchi di ogni genere, fino a che una ristretta cerchia di musicisti non si era procurata un regolare permesso. L'appuntamento della domenica pomeriggio a Washington Square fu un catalizzatore incredibile per quella generazione e nel tempo si ingigantì talmente tanto che alla fine degli anni 50 era diventato addirittura un'attrazione turistica. Da un certo punto di vista era una situazione un po' pesante, ma dall'altro significava che finalmente avevano un pubblico. Un'ottima cosa per chi tra loro stava di fatto imparando il mestiere. Se eri un solista, ti sedevi, cominciavi a suonare e la gente si radunava intorno. Ognuno cercava di tenersi stretto il suo fazzolettino di prato, continuando a cantare finché c'era l'attenzione del pubblico. Non ho altro. Come gli era capitato nel mondo del jazz, Dave aveva un certo vantaggio a causa del volume della sua voce. Che fosse bravo o meno, riusciva sempre a farsi sentire, quindi di solito aveva attorno un bel po' di gente. Tutto questo, tra parentesi, senza che girasse un soldo. Non vide mai nessuno tendere un cappello o ricevere un centesimo a Washington Square Park. Ehi, hey, dove vivi, Al? A Downing Street. Sì, un bel posto? È una topaia. Hai un divano? Per quanto potessero considerarsi seguaci devoti degli stili più autentici e puri del folk, c'era pochissima musica di quel genere a disposizione. Poi però accadde una cosa meravigliosa. Intorno al 1953, la Folkway Records pubblicò una raccolta di 6 LP intitolata Antologia della musica folk americana, che comprendeva incisioni di canzoni tradizionali realizzate da musicisti di provincia del sud tra gli anni 20 e 30. Quella raccolta divenne la Bibbia dei musicisti di Washington Square Park. Quasi per la prima volta riuscirono a farsi un'idea di cosa fosse la musica tradizionale negli Stati Uniti e furono in grado di attingere direttamente alla fonte anziché affidarsi ad interpreti di seconda e terza mano. Il loro interesse divenne un'ossessione, al punto che per un certo periodo Dave non frequentò nessuno che non avesse a che fare in un modo o nell'altro con la musica folk. Una dedizione tanto infervorata dà i suoi frutti, quando si tratta di imparare a cantare e a suonare, di costruirsi un repertorio o qualunque altra cosa uno debba fare. Wicked talk man, I'll get your man to a mizpah. Man a squad, rare return, matter one, totawa. Weppity by zippity, penny pot, hack and sack, bats, toe, Nesco, Matita Kong, Peapack, Lock Arbor, Egg Harbor, Swinesburg, caviar. Non c'era mai stato un periodo nel quale avesse imparato così tanta musica e così in fretta. E non ce ne sarebbe mai più stato un altro. La cornice più regolare per i loro ritrovi era una coffee house di McDougal Street, chiamata Carrie Catcher. Non somigliava affatto alle coffee house che di lì a poco avrebbero aperto in quel quartiere, nel senso che non era adatta a ospitare dei concerti. Il posto era minuscolo, con un retrobottega ancora più piccolo nel quale potevano strimpellare e cantare, a patto che non disturbassero le maratone di bridge che si svolgevano nel locale vero e proprio. Era un buco e c'era spazio giusto per 2 tavoli e alcune panche. La proprietaria era una donna di nome Liz e aveva la pazienza di una santa. Magari era lì che provava a giocare a bridge, con loro scalmanati a sbraitare in sottofondo, e solo di tanto in tanto la signora Liz andava a dire: «C'è una partita decisiva e difficilissima in corso. Potreste abbassare un po' il volume?» Alla Liz le piaceva la musica, sebbene ne parlasse di rado, ed era gentilissima con tutti. Se non gli avesse fatto credito su tutti quei cheeseburger, i ragazzi sarebbero morti di fame. Faceva dei cheeseburger fantastici, e quelli gratis erano i più grandi e i più buoni. Non hai un'etichetta? Sì, la Legacy. Sei in esclusiva con me. Mi serve l'autorizzazione, te la darà. Ci vorrà... Merda, mi servono i soldi adesso. Se vuoi un contratto da indipendente, ti faranno un assegno anche oggi. Fatturaci $200. È più del normale perché non avrai le royalty. Va benissimo. E posso incassarlo? Sì, dietro all'angolo. Per quanto Dave adorasse suonare, non guadagnava un quattrino. Era uscito dal giro dei concerti jazz e sembrava che nessuno fosse intenzionato a ingaggiare un urlatore blues di Brooklyn. Con un gruppo di amici raccoglieva $5 a testa ogni mese per affittare un loft, così da avere un posto dove organizzare feste, portare le ragazze o crollare qualora fossero rimasti bloccati a Manhattan in piena notte. Ognuno aveva portato la sua collezione di dischi, messa in comune per creare una sorta di biblioteca musicale condivisa. La regola era che nessuno avrebbe dovuto comprare un disco già acquistato da qualcun altro, per massimizzare il potere d'acquisto collettivo. Inoltre, dato che si trattava di uno spazio condiviso, nessuno avrebbe dovuto viverci a tempo pieno, ma ovviamente molti lo facevano e come, soprattutto Dave. Chi ha vinto la lotteria stanotte? Ah? Sto da Al Cody. Trovi. Sul divano di chi dormi stanotte? Te l'ho detto, da Al Cody, non ascolti. Tirava a campare, ma era una vitaccia. E alla fine decise che gli serviva un lavoro vero. E poiché moriva dalla voglia di vedere qualche altro angolo di mondo, decise di imbarcarsi con la marina mercantile. Allora, posso imbarcarmi? No, non lo puoi fare. Perché? Non sei sulla lista. Va bene, beh, mi ci può mettere sulla lista? No, non lo posso fare. Perché? Secondo te? Non lo so, perché sono comunista. Shaktmanista. Cosa? No, non è questo. Non sei in corso. Non sono in corso? È un altro modo di metterla. Cos'è, un termine nautico? Non sei in corso con le tasse. Paghi le tasse arretrate, $148, ritorni sulla lista e io posso farti imbarcare. C'è un posto sulla Maid of the Gate, marinaio prima classe, salpa venerdì alle 6 del pomeriggio. Mitch Mitchell, suo amico libertario iscritto al sindacato dei marittimi, parlò con alcuni conoscenti e procurò a Dave le scartoffie necessarie. Per una settimana o due gli toccò alzarsi alle 8:30 ogni maledetta mattina e andare fino a Brooklyn alla sede del sindacato con la tessera in mano. Ora ti scrivo una ricevuta, insieme al molo, il numero della nave e l'ora. Hai il brevetto da sottufficiale e da pilota, vero? Non ti imbarchi senza. Sì, ce l'ho. Alla fine trovò un posto su una petroliera e nel corso dell'anno successivo salpò due volte. Una volta per New Orleans e una volta per Wilmington, California. Gli piaceva parecchio quella vita, sebbene ci fossero alcuni inconvenienti dal punto di vista musicale. Era un mozzo e si era portato a bordo una chitarra. Una sera che montava di guardia, il mare si fece bello grosso, ma Dave non poté tornare alla sua cabina nel castello di prua per chiudere il portello. Quando finalmente terminò il suo turno di guardia, scese in cabina e trovò la chitarra che galleggiava in un palmo d'acqua. Cercò di pulirla al meglio, ma quando si asciugò, purtroppo il legno si alzò come una tapparella. Queen Jane lay in labor for 9 days or more, till her women grew so tired, could no longer there, they could no longer there. Email audiogrammi at radio24.it. Chuck. Audiogrammi in radio come al cinema. Vi stiamo raccontando A proposito di Davis di Joel ed Ethan Coen. Nonostante l'esperienza marittima, quando arrivava la domenica pomeriggio, la forza dell'abitudine lo conduceva a Washington Square. Ma quale forza dell'abitudine? Non vedeva l'ora di arrivare lì, con i calzoni da lavoro scampanati e la coppola che aveva comprato all'emporio della nave, nera come il carbone e dura come la roccia. Era ansioso di far pesare la sua autorità fra i suoi amici folchettari piccolo borghesi. C'era grande entusiasmo nella ristretta cerchia di mancati cantanti di ballate. E Rick Almen, che stava per aprire un caffè in un vecchio garage della terza strada, aveva preso nota di tutti i cantanti di folk che bazzicavano l'appartamento, probabilmente nel disperato tentativo di farsi pagare l'affitto. Tutti davano una mano a Rick a rimettere a posto il locale per farci musica folk. Dave doveva ammettere che il posto stava venendo bene, ma ancora non credeva che ci sarebbe stata nessuna ricompensa per i loro sforzi. Finiti i lavori, Rick mantenne la parola e offrì il palco nella serata d'apertura a chiunque fosse interessato. Estese l'invito anche a Dave. Certo, i soldi erano un'altra storia. Se il locale avesse ingranato, ce ne sarebbero stati per tutti, ma nel frattempo toccava rischiare. «È una fregatura», disse Dave. «Nessuno di noi farà mai un quattrino in questo posto». E accettò all'istante. Il caffè Bizarre, come Almen aveva ribattezzato il suo locale, fu la prima coffee house del village a proporre musica folk o una qualsiasi forma di intrattenimento. Successo strepitoso, tanto da provocare in brevissimo tempo più tentativi di imitazione nell'intero paese. Dave aprì il secondo tempo dello spettacolo e nel momento in cui si abbassarono le luci, si rese conto di essere spaventato a morte. Era la prima volta che si ritrovava da solo su un palcoscenico. Accidenti, che adrenalina! Sgattaiolò sul palco al buio e fu beccato da un occhio di bue pochi secondi dopo aver già iniziato la prima canzone. L'effetto fu sbalorditivo. Lui, perlomeno, era sbalordito fino al midollo. Era così stordito ed impaurito ed euforico che quando scese dal palco non ricordava più niente di cosa avesse fatto là sopra. There was fiddling and dancing on the day the babe was born, but poor Queen Jane, beloved, lay cold as a stone, lay cold as a stone. Fu così che Dave divenne un cantante folk. Come quasi tutte le grandi scelte lavorative, fu una scelta obbligata. Come va la musica? Piuttosto bene, piuttosto bene. Ah, bravo, così non devi chiedere prestiti. In effetti io mi domandavo... Uh-huh. È venduta? La casa? Sì. Sì, uh-huh. Insomma, è data in garanzia. A quanto? A 11,5. Ma perché? Non è casa nostra. Non è casa nostra? Beh sì, è casa di mamma e papà. Servono per le sue spese. Non ci spetta niente. Volente o nolente, Dave avrebbe dovuto guadagnarsi da vivere con la musica folk. Non esistevano dei locali interessati a scritturarlo e nessuno era così folle da voler sponsorizzare un suo concerto. Come andiamo? Il nuovo disco va bene. Magari fosse. La gente ha bisogno di tempo, ecco, per conoscerti, comprarti come numero da solista, perfino per sapere che fai un numero da solista. Era dolorosamente consapevole, per ovvie ragioni, delle lacune economiche della pur fiorente industria del folk. Si guadagnava qualcosa dando lezioni di chitarra blues, qualcosina con i concerti, ma le luci all'orizzonte restavano fioche. Mel, non c'era nessun anticipo sul mio disco da solista, devono esserci delle royalty. Che cazzo, fa freddo, non ho nemmeno un cappotto. Cristo santo, vuoi scherzare? Per i turisti il folk era semplicemente una parte della scena beatnik. Quando un cantante folk saliva sul palco tra un poeta beat e l'altro, le signorine e i signorini, che fino a un momento prima se la stavano spassando, ci mancava poco che si tappassero il naso. Poi, quando i poeti beat tornavano sul palco e ricominciavano a dire stronzate, i seguaci del folk facevano altrettanto. A volte l'unica ragione per cui lasciavano esibire i cantanti folk era per svuotare il locale. Il Gaslight, ad esempio, aveva solo 110 posti a sedere e durante il fine settimana c'era la coda di gente che aspettava di entrare. Per massimizzare i profitti, al titolare serviva un modo per liberarsi dei clienti non appena avevano finito le loro tazze di caffè troppo caro, dato che nessuno avrebbe mai ordinato una seconda tazza di quella brodaglia. Si trattava di un problema logistico la cui soluzione erano i cantanti folk. Salivi sul palco, facevi 3 canzoni e se alla fine di quelle canzoni c'era ancora qualcuno seduto, eri licenziato. Nei 2 anni successivi però la situazione si ribaltò. In sostanza venne fuori che erano in grado di attrarre più gente e di farla tornare più spesso. E non perché la musica folk sia per forza più interessante della poesia, solo che il canto è intrinsecamente teatrale, mentre l'inverso non vale per la poesia. Pochi mesi dopo, Dave si imbatté in Jimmy Gavin, che si stava occupando di scritturare alcuni musicisti per una nuova coffee house chiamata The Commons. Era proprio di fronte al Gaslight e Dave si presentò. Mel Novikov le ha mandato il mio disco circa un mese fa, Inside Llewyn Davis. Le è piaciuto? Non so, non l'ho avuto. Ecco, sì, a me interesserebbe lavorare qui, ma magari anche trovarmi un manager capace. Bene, sentiamo qualcosa. Vuole ascoltare il disco? Perché dovrei, sei qui, suonami qualcosa. Lavoravano già 4 o 5 musicisti e Dave divenne il sesto. Era uno di quei locali che i musicisti chiamavano Basket House, perché la maggior parte degli introiti gli arrivava dalle mance. Pappi ti farà suonare domani, racimoli qualche soldo. Non penso, è già stato meno di un mese fa. Invece sì, gliel'ho chiesto. No. Potrebbe andarti bene domani. Dovresti dividere il cestino, per la verità. C'era un cestino accanto all'ingresso, sorvegliato da una giovane donna che adulava i clienti, o li metteva in imbarazzo o li minacciava, convincendoli a sganciare un dollaro o due quando uscivano. E a fine serata il contenuto del cestino veniva diviso per il numero di persone che si erano esibite. Il Commons rappresentò una svolta per Dave. perché oltre a fornirgli un luogo dove suonare con regolarità, gli fece incontrare molti di coloro che sarebbero diventati i suoi amici più intimi negli anni successivi. Come dice l'intrattenitore hippie Wavy Gravy, se ti ricordi gli anni 60 vuol dire che non c'eri. I ragazzi di allora erano giovani, pieni di vigore ed entusiasmo, e in quegli anni sembrava che la vita fosse un'unica e interminabile festa. La base operativa di Dave per buona parte degli anni successivi fu il Gaslight Café. Ancora una prima che me ne vada. If I had wings like Nora's dove, I'd fly up the river to the one I love. Fare thee well, oh honey. Al Gaslight avevano quasi tutti un'idea abbastanza precisa di ciò che volevano. Non interessava a nessuno il professionismo nel senso pieno e commerciale del termine. Nessuno si sarebbe mai sognato di salire sul palco indossando qualcosa di diverso dai vestiti dell'uomo della strada, ad esempio. Ma detto questo, il livello della musica e dell'etica lavorativa erano piuttosto alti. Alcuni avevano già molta esperienza e gli altri la stavano facendo in fretta. Lavoravano per le folle di turisti che venivano al Village a dare un'occhiata ai beatnik, e si trattava di un pubblico molto difficile. Di solito facevano prima il giro dei bar, e quando arrivavano al locale ormai erano belli carichi. Così Dave e gli altri suonavano per platee di 50 o 100 ubriachi di periferia, ai quali davvero non sarebbe potuto importare meno della musica. Erano venuti a vedere un po' di gente strana e ad attaccar briga. E se non gli piaceva quello che sentivano, lanciavano oggetti contro il palco. Fortunatamente gli attaccabrighe erano troppo carichi per riuscire a colpire alcunché. In quel genere di situazione o imparavi a gestirti sul palco oppure cambiavi mestiere, e coloro che riuscirono a stringere i denti divennero professionisti ben navigati. Per anni Dave fu una presenza fissa al Gaslight, e per quanto fosse una gabbia di matti, gli piaceva lavorare lì. L'inverno del 1960-61 fu davvero bastardo. Neve fino alle orecchie e freddo a volontà. Nel giro di Dave, tuttavia, si avvertiva qualcosa di elettrizzante che scorreva in sottofondo. Sapevano che qualcosa stava per succedere, anche se non erano sicuri di capire cosa fosse. Nuovi locali spuntavano come funghi e si rincorrevano le voci di altri nuovi locali in apertura. Un pomeriggio in particolare. Il posto di ritrovo era il Café Watt all'angolo tra McDougall e Minetta Street. Il gestore aveva recentemente cominciato a organizzare dei ritrovi diurni con il cantante Fred Neil come maestro di cerimonie. Quando Dave e gli altri arrivarono, Fred era sul palco con la chitarra e accanto a lui, a suonare l'armonica, c'era il ragazzino più trasandato mai fuggito da un campo di Gran Turco. «Ma questo dove ha imparato a soffiare nell'armonica in quel modo?» chiese Dave ai suoi compagni. Gli piacque. C'era qualcosa di eccessivamente entusiasta, di dadaista, che lo faceva piegare dal ridere. Poi Fred scese dal palco e il ragazzo fece un paio di canzoni da solo. E il suo modo di cantare era come il modo di suonare l'armonica. Non faceva prigionieri. Erano tutti impressionati. Dopo il concerto Fred fece le presentazioni, dicendo che quello era Bobby. Dave gli strinse la mano. Era giovane, era appena arrivato in città e aveva una voce particolarmente irritante, e nessuno poteva sapere che sarebbe diventato Bob Dylan. Oh, it's fairly well, my darling true. I'm leaving in the first hour of the morn. I'm bound for the Bay of Mexico, or maybe the coast of California. So it's fare thee well, my own true love. We'll meet another day, another time. It ain't the leaving that's a grieving me, but my darling is bound to stay behind. Sam Hood, che proprio in quel periodo prese in mano il Gaslight, insistette nel dire che lo usava soltanto nelle serate di Pienone, per svuotare il locale. Le esperienze di Bobby in quel periodo sono parecchio diverse da quelle di Dave. Dave riusciva a guadagnarsi da vivere. Dylan suonava ovunque lo lasciassero suonare e accompagnava la gente con l'armonica e cose del genere, ma non è che ci fosse davvero del lavoro per lui. Scroccava da mangiare e dormiva sui divani degli altri, molto spesso su quello di Dave. That's a grieving me, but my darling, who's bound to stay behind? Email audiogrammi at radio24.it. Chuck, azione. Audiogrammi in radio come al cinema. Vi stiamo raccontando A proposito di Davis, di Joel e de Tancoen. Una volta pensavo di poter al massimo sperare di arrivare al livello di Dave Van Ronk, ma adesso siamo ben oltre. Eh sì, bello mio, molto oltre. Bob Dylan, 1964. Per fortuna la tua musica va bene. Sì, beh, chi se ne fotte. Il linguaggio. No, sì, scusami. Non sono uno dei tuoi amici del Village. D'accordo, sì, sì. Hai ancora i documenti da marinaio? Sì, perché? Beh, se la musica non... Cosa? Mollare? Di nuovo la marina mercantile, solo... esistere? Esistere? Questo facciamo noi fuori dallo show business. Non è così male esistere. When first I met you years ago, in another time and place, the thought came to my mind, I'd never seen a kinder face. Verso la metà degli anni 60, la scena del Village era più forte che mai, ma allo stesso tempo si era già perso qualcosa. Sempre più persone se ne andavano via, compravano casa a Woodstock o chissà dove, e c'era sempre meno cameratismo nell'aria. Che le cose stessero prendendo una certa piega si capì quando Andy Warhol e la sua bella gente cominciarono a frequentare il Gaslight. Quel biondino era come un avvoltoio. Appena lui spuntava, sapevi che la festa era finita. Anche se tutto sommato resistettero più a lungo di quanto avessero diritto di aspettarsi, una volta entrati in gioco i soldi veri, i cambiamenti furono inevitabili. Gli affitti si impennarono, i costi schizzarono alle stelle e quanto puoi farla pagare una tazza di caffè? It ebbs and flows, it comes and goes, no reason, reach, no rhyme. As each day becomes another day, each year another year. I'd trade a year in heaven for a day with you, my dear. Negli anni 60 arrivò una nuova ondata di musica pop, con gente come i Beatles che faceva cose davvero innovative. Alcuni fecero molti soldi, altri fecero un po' meno di soldi. Pochi divennero delle star e altri finirono male. Quello che resta di allora sono alcune ottime canzoni e qualche ottimo intrattenitore. Ma in fondo non c'è periodo della storia umana che non abbia prodotto buone canzoni e buoni intrattenitori. All'epoca non erano certo intenti a sgomitare l'uno con l'altro per arrivare in cima. Fondamentalmente se la stavano spassando. Dal punto di vista di Dean, una delle cose più belle di quel periodo era potersi guadagnare da vivere senza mai lasciare il Village. Lavorava settimane e settimane senza sosta in locali che poteva raggiungere a piedi. Così il suo salotto era il suo camerino e poteva persino andare a casa fra un concerto e l'altro. Ascoltava la musica che voleva ascoltare, faceva la musica che i suoi amici volevano ascoltare e sentiva di appartenere a una comunità di cantanti, autori e interpreti davvero speciali. Per molti anni Dave resistette alla tentazione di formare un gruppo. Aveva sempre preferito lavorare da solo. Gli piaceva davvero camminare mano nella mano con il suo pubblico. E dopo averlo fatto per così tanto tempo, il suo cervello non poteva più concepire nulla di diverso. Ciò nonostante, nel 1967 cominciava a sentirsi come l'unico ragazzino del quartiere che non aveva il meccano. Quelli che conosceva si stavano dando la chitarra elettrica e stavano diventando ricchi e famosi. E poi c'erano i discografici con le penne in mano a dirgli: «Metti su un gruppo rock e anche tu comprerai sigari cubani, mangerai caviale del Caspio e fumerai ganja afghana». Chi era lui per andare contro la corrente della storia? Senti, sto mettendo insieme un trio, due uomini e una cantante donna. Non sei tipo da leader, ma se riduci quella barba a un pizzetto e stai lontano dal sole, possiamo vedere come va la tua voce con gli altri due. Te la cavi bene con le armonie? Così telefonò al suo vecchio amico Dave Woods e formarono gli Hudson Dusters. La svolta fu quando proposero a Dave di cantare in playback, cosa che non aveva mai fatto prima e che giurò di non fare mai più. Quello fu il suo tentativo di fare breccia nel mondo del rock, ma capì presto che non era tagliato per quelle cose. Tanto per cominciare, stava finendo sul lastrico perché i locali pagavano alla band la stessa cifra con la quale lo avrebbero pagato da solista, ma con le spese quintuplicate. Nel frattempo si sentiva sempre più costretto a doversi incastrare in uno spazio all'interno di un ensemble. Era abituato a fare e disfare le sue scalette come gli pareva, e dover suonare le stesse dannate canzoni ogni sera era una tortura. Come wind, oh come all winter gale, sweating or cold, growing up, growing old, old. Dying as we hunt the bonny shores of heaven. Non ci vedo tanti soldi qui. D'accordo. Tu vai bene. Non sei acerbo. Ma non ho quello che diciamo a Troy Nelson. Conosci Troy? È un bravo ragazzo. Entra in contatto con la gente. Nel giro di pochi anni, la fantastica scena folk era ormai finita per sempre. Le major avevano capito che Dave non avrebbe mai venduto un milione di dischi e smisero di farsi sentire. Non era una sensazione particolarmente piacevole e per un po' fu molto frustrante, ma poi si abituò a quella situazione. In un certo senso fu fortunato, perché la gente arrivata tra il 1963 e il 68 pensava di aver trovato il paese dei balocchi e quando i soldi vennero a mancare fu uno shock terribile. Ma visto che Dave era arrivato prima che si vedesse anche solo un centesimo, fu relativamente facile per lui accettare l'idea che ciò che sale, prima o poi, scende. Così, quando la scena implose, provò la soddisfazione di un avventista del settimo giorno la mattina in cui il mondo finisce sul serio. E da residente del village non gli dispiaceva poter camminare per la strada senza doversi far largo tra orde di turisti. Gli toccò organizzare qualche tournée in più, ma fra i concerti e qualche lezione visse ragionevolmente bene, suonando la musica che amava, ed era pur sempre molto più di quanto si aspettasse quando aveva cominciato, o quello che la sua istruzione o le sue origini gli avevano permesso di sperare. Per gli ultimi 30 anni della sua vita, combatté con un certo successo una guerra di resistenza. Le sue scelte musicali furono tutte farina del suo sacco. E la gente continuò ad andare ai suoi concerti e a comprare i suoi dischi. Riteneva importanti le opinioni musicali di circa 200 persone in tutto il paese e la maggior parte di queste apprezzava il suo lavoro. In fondo, quello era lo scopo del gioco, fin dall'inizio. But first I met you years ago in another time and place. A thought came to my mind, I'd never seen a kinder face. A warmer laugh, a gentler smile of eyes, so full of light. I'd be a fool if I didn't fall in love with you that night. Fare il musicista non è un biglietto omaggio per la gloria. È un lavoro e a volte può essere durissimo. Ma poi qualcuno viene da te e ti dice: ehi Dave, ti ho visto nel 62 a San Marcanda. E ti fa piacere. Non ho mai fatto i milioni. A dire il vero, mi sono spesso ritrovato immerso fino al collo nei debiti, ma dannazione. Faccio quello che voglio fare e sono riuscito a farlo per quasi 50 anni e non ho mai dovuto fare nient'altro. Volevo diventare un musicista e sono un musicista. E alla fine è solo questo che conta. Testo tratto da Manhattan Folk Story, il racconto della mia vita, di Dave Van Ronk, edizioni Burr Rizzoli. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.